I consigli di un amico. Leggo nella Bibbia in Proverbi 27:9. L'olio e il profumo rallegrano il cuore. Così fa la dolcezza di un amico con i suoi consigli cordiali. A volte ci fa proprio piacere avere qualcuno vicino che ci dia dei consigli. Ci sono situazioni in cui non riusciamo a prendere una decisione. Abbiamo paura di sbagliare e allora in quei casi poter chiedere un consiglio ad un amico può essere davvero prezioso. Ma chiedere un consiglio a qualcuno vuol anche dire esporsi ad ascoltare un parere che potrebbe non piacerci. Siamo davvero pronti a farlo. Qualche volta mi è capitato che qualcuno mi chiedesse un consiglio e poi si arrabbiasse perché il mio consiglio non coincideva con il suo pensiero iniziale. Ma non è proprio per allargare la propria mente, per vedere nuove possibilità che si chiedono consigli? Infatti il vero amico non è colui che ci dirà solo le cose che noi vorremmo sentirci dire, ma anche e soprattutto colui che avrà il coraggio di farci notare quando stiamo per commettere uno sbaglio o magari quando lo abbiamo già commesso. Rileggendo questo verso e pensando anche a varie situazioni in cui mi sono trovato, mi rendo conto che i consigli più cordiali che ho ricevuto sono stati proprio quelli che mi hanno fatto riflettere e magari cambiare opinione. Quelli sono stati davvero come olio e profumo che rallegrano il cuore. L'olio e il profumo venivano largamente utilizzati nell'antichità per preparare unguenti per gli ospiti, per rendere le stanze di una casa più accoglienti e in questo senso rallegravano il cuore. Allo stesso modo un amico che non ci dica solo quello che ci vogliamo sentir dire, ma sappia parlare con il cuore, che ci dica la verità anche se ci dà fastidio, piuttosto che una bugia accomodante, rallegrerà il nostro cuore e sarà un vero amico. A volte, per evitare discussioni, non ho detto ad un amico davvero come la pensavo, ma mi rendo conto che in quei casi non mi sono comportato come un vero amico. Con il passare degli anni mi sono accorto quanto è prezioso avere vicino degli amici che sappiano anche darci torto e porci davanti a nuove sfide. Purtroppo mi sono accorto che molte persone considerano invece amici solo quelli che danno loro sempre ragione, che sono pronti a difenderli in ogni caso, e se non sei così non ti considerano un amico. Credo che queste persone non sappiano cosa sia la vera amicizia. Io prego il Signore di poter essere per qualcuno un buon amico che sappia dare buoni consigli pensando al bene dell'altro. Vorrei essere dolce e cordiale senza scendere a compromessi, ma dicendo la verità. E vorrei che anche gli altri fossero sempre franchi con me. Quelle sono amicizie che arricchiscono davvero.